petto. Io non chiedo rispetto, rispetto, rispetto. Io non quiero rendir respeto. Io non quiero rendir respeto. Solo quiero rendirme por amor. Solo quiero rendirme por amor. Yo no quiero rendir respeto. Yo no quiero rendirme respeto. Solo quiero rendirme por amor. Rendirme por amor. Solo quiero.